Storie italiane. I tre principi. C'era una volta, nel regno di New Lancord, un re chiamato Omatte. Aveva tre figli, Odino, Oscar e Oliver. Odino era il più grande e amava dipingere. Trascorreva tutto il suo tempo nei boschi del regno, dove faceva bellissimi dipinti. Il secondo principe, Oscar, anche se talentuoso, era estremamente capriccioso e a volte voleva essere un pittore, altro un dottore, a volte persino un ballerino. Il più giovane, Oliver, era viziato e maleducato. Si comportava male con tutti i domestici e non era mai soddisfatto dei loro servizi. Il re Omat era molto preoccupato. Tutti e tre i suoi figli erano uomini cresciuti, ma in nessun modo erano pronti ad assumersi alcuna responsabilità. Un giorno decise di chiamarli. Sì, padre, ci hai fatto chiamare? Sì, figli miei. Ho servito questo paese con tutta la mia buona volontà e ora vorrei viaggiare per il mondo. Ma voglio che voi vi assumiate tutte le responsabilità. Padre, mi dispiace, ma devo ancora trovare la mia vera vocazione. Sto ancora cercando di capire quale sia e apprezzerei davvero se tu non mi mettessi fretta. Ma Oscar... Scusa, padre. Odino, Oliver. Padre, so che pensi che io sia pronto ad assumermi le mie responsabilità e onestamente anche io lo penso, ma... Non sono il maggiore. Non dovrebbe essere Odino a preoccuparsi? Sì, ma puoi provare ad aiutare, vero? Ah, no, grazie. Preferirei giocare con i miei amici piuttosto che fare un lavoro noioso di amministrazione. Detto questo, Oliver se ne andò. Il triste re Omat ora si rivolse ad Odino. Odino, il mio primogenito, aiuta tuo padre. Padre, te l'ho già detto. Non ho interesse a diventare re. Mi dispiace farti del male, ma voglio andare a Roma e diventare un pittore. Con il cuore pieno di tristezza, Odino si voltò e se ne andò. Non appena uscì dalla porta, Omat alzò lo sguardo, pieno di rabbia. Ti avevo detto che non avrebbe mai funzionato. Ai miei figli non importa niente di queste stupidaggini emozionali. Avrei solo dovuto ordinare loro di fare quello che volevo. E da dietro il lampadario emerse una fata. Si chiamava Kitto. Calmati, re mio. Facile da dire per te. Non sei tu quella che cerca di convincere tre adulti a gestire un intero regno? Perché non fai il loro gioco, allora? E cosa significa? Sembra divertente. Va bene, Kitto, facciamolo. Lo stesso giorno, il re andò da Oliver. Ciao, Oliver. Ammiri la tua spada, vero? Non è magnifica, padre? È così brillante. Ma a che serve una spada pulita che non verrà mai usata? Che cosa? Naturalmente verrà usata. Da chi? Tu? Figlio mio, hai solo 19 anni. Ero forte e coraggioso alla tua età. Ma tu... Beh, non ti preoccupare. Sarai pronto quando avrai... 60 anni? 60 anni? Mi aspetto di essere re prima di quel tempo. Un re che non vuole nemmeno seguire l'addestramento per diventarlo? Figlio, hai una lunga strada da percorrere prima di diventare re. Come ho detto, all'età di 60 anni. Oliver fu scioccato nel vedere ciò che suo padre pensava di lui. Era arrabbiato. Bene, ha funzionato? Facile come rubare caramelle a un bambino. È tutto arrabbiato. Per niente divertente. Spero che il tuo piano funzioni. Ah, funzionerà! Ora, uno è andato, ne mancano ancora due, mio re! Il re andò dal suo secondo figlio e trovò Oscar circondato da vasi di fiori. Padre, guarda, ho trovato un nuovo hobby! Giardinaggio! Divertente, vero? Oh, bene, figlio mio! Sono venuto per dirti che non ti costringerò ad assumerti alcuna responsabilità. Veramente? È fantastico! Voglio dire, è ovvio che non intendi diventare un re. Un re è sempre sicuro di ciò che vuole. Che cosa? Ne sono certo, credo. Ovviamente. Sono sicuro che la gente amerebbe un sovrano che non riesce a decidere se essere un re o un giullare. Bene, goditi il tuo nuovo hobby, figliolo. Ciao, ciao. Non pensa che io sia abbastanza sicuro? Va bene, domani uscirò e gli dimostrerò che ha torto. Alla fine, il re andò dal figlio maggiore, Odino. Wow, davvero magnifico! Oh, perché grazie, Odino. Non sapevo che ti piacessi ancora. Oh, mi dispiace, padre. Intendevo il cespuglio di rosa dietro di te. Non importa, Odino. Sono venuto per chiederti se ti piacerebbe dipingere qualcosa di diverso dai boschi. Che cosa? Ma cosa c'è che non va nei miei dipinti? Bene, voglio dire, hanno così tanti alberi e cespugli e alberi. Perché non provi a dipingere montagne, paesaggi, qualcosa di diverso, un po' più stimolante? Questa è una grande idea. Domani partirò per dipingere nuovi posti del regno. Grazie per il supporto. Oh, oh, oh, oh, oh. Cos'altro potrebbe fare un padre? Ora tocca a te, Kitto. Ho fatto la mia parte. Il giorno seguente, Oliver si travestì e uscì dal palazzo camminando. Lo dimostrerò a mio padre. Tuttavia, non si era reso conto che Kitto lo stava seguendo. Presto si imbatté in una vecchia signora che trasportava un cesto di mele. Ecco la mia occasione! Oh no! Oh, giovane, potresti aiutarmi? Io? Ma sei tu quella che l'ha lasciato cadere? Oh, come sei maleducato! Anche il re sarebbe più gentile! Questo fece sussultare il giovane principe perché nessuno gli aveva mai parlato così. Mi dispiace. Almeno ti scusi. Oliver era così confuso che iniziò a raccogliere le mele per la vecchia signora. Bene, mi hai aiutata. Grazie. Lei gli fece un grande sorriso e se ne andò. Oliver continuò a vagare, pensando intensamente. Quei soldati stanno facendo una chiacchierata interessante. Portiamo lì il nostro piccolo principe. Ehi-ya! Oh, la mia spada! Spada? Oh, soldati! Oliver si avvicinò e ascoltò la loro conversazione. Cosa facciamo? Pensi che attaccheranno? Non so, ma dovremmo rimanere calmi. Calmi? Se c'è un nemico, attacchiamo! Cos'ha questo ragazzo? Non puoi semplicemente attaccare un nemico. Sì, se questo porta alla guerra, pensa al popolo del regno. Non ti preoccupare, ragazzo, queste cose sono di competenza del re e del suo esercito. E anche dei principi. Sentendo questo, Olive provò vergogna. Non sapevo che ci fosse così tanto da imparare. Mio padre si prende davvero cura di così tante cose da solo? Sta funzionando! Ora è il prossimo! Oscar stava vagando in un'altra parte del regno. È così eccitante! Un pittore? Potrei certamente fare un dipinto migliore. Mentre andava oltre, Kitto vide improvvisamente un gruppo di artisti seduti, tristi. Lei sorrise. Sì! Oscar sentì il suono e si avvicinò a loro. Artisti? Ma perché siete tutti tristi? Beh, il nostro re ha ospiti importanti dai regni vicini. Ma non pensiamo che la nostra danza sia abbastanza. Vogliamo fare un bello spettacolo per gli ospiti. Oh, ballo abbastanza bene, sai? Lascia che vi aiuti. E così ballò e insegnò loro come fare. Alla fine, tutti gli artisti erano di buon umore, pronti per lo spettacolo. Grazie, giovane. Ne avevamo davvero bisogno. Speriamo tu venga a vederci. Ciao! Oscar era molto felice di aver effettivamente aiutato qualcuno usando i suoi talenti. Se uso gli altri miei talenti per aiutare più persone, forse gestire il regno non sarà una cattiva idea. Sì, solo un altro. Kitto si guardò intorno alla ricerca di Odino e lo trovò seduto vicino ad un fiume. Oh no, dovrei portarlo in un altro posto. Ah, questo posto è fantastico e ne ho quasi dipinto la maggior parte. Ora dovrei solo... Adesso! Oh no, il mio dipinto è tutto fangoso. Ah, andrò altrove. Quindi prese i suoi colori e la sua tavola e se ne andò. Ah, questo posto sembra andar bene. Niente catastrofi meteorologiche qui. Cominciò a dipingere e aveva quasi finito quando un uomo che trasportava un secchio d'acqua si avvicinò. Un po' più avanti, ancora. Adesso! L'acqua del secchio si riversò su tutto il quadro. Odino ora era furioso. Che noia! Voglio solo dipingere qualcosa di molto bello. Mi dispiace molto, giovane, ma se vuoi dipingere qualcosa di bellissimo, posso dirti dove andare. È pieno di prati verdi e splendidi stagni dove nuotano i cigni. Sembra fantastico. Dimmi, dove si trova? L'uomo indirizzò Odino verso il luogo e lui vi si precipitò in fretta. Sono arrivato, finalmente. Ma aspetta, qui non c'è altro che terra secca. Quell'uomo mi ha ingannato. Proprio in quel momento, una bambina passò di lì. Ehi, bambina, puoi dirmi dove è il posto in cui ci sono bellissimi stagni, dove nuotano i cigni? Questo è il posto. Oh, lo era prima di essere colpito da una carestia che ha costretto tutti a lasciare la zona. Il re non si preoccupa di noi. Hai torto. Al re importa molto. Semplicemente non ha alcun aiuto. Odino si rese improvvisamente conto di ciò che aveva detto. La bambina non era interessata e se ne andò via. Che brutto. Un posto bellissimo come questo è rovinato, anche dopo che il mio povero padre ci ha provato così tanto. Finalmente, il mio lavoro è finito. Di ritorno al palazzo, il re era seduto da solo, sognando la sua vacanza. Oh, caldo sole che splende, fiumi grigi, dolce acqua di cocco. Oh, quando verranno a dirmi di essere pronti? Padre! Padre! Siamo pronti. Eh? Che cosa? Ah, ok. Padre, abbiamo viaggiato per il regno e abbiamo visto quanto bene lo governi. Abbiamo visto che anche tu hai davvero bisogno di aiuto e... Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. Il re era così commosso che scoppiò in lacrime. I miei ragazzi, sapevo che avreste capito. E così i tre principi si unirono per governare il regno. Lo fecero abbastanza bene, poiché erano già intelligenti e furbi a modo loro. Da un'altra parte, il re si divertiva e oziava su una spiaggia sotto il sole caldo. Questa è la cosa migliore. E questa acqua di cocco è davvero gustosa. Giusto, Kitto? Oh, sicuramente, Tua Altezza. Sicuramente.